versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon venerdì 14 di marzo, 16.35, 23 secondi in diretta dagli studi Radio 24 di Milano. Come avevo anticipato ieri, il tema della puntata di oggi, per chi volesse intervenire all'800 24 00 24, è la proposta, l'ennesima proposta, ma comunque la proposta che fa parte questa volta del pacchetto Renzi, di alzare al 26% l'aliquota sulle cosiddette rendite di capitale, cioè sui redditi che si producono da utilizzi del risparmio. Naturalmente oggi abbiamo qui un ospite di tutto riguardo, che ha tutti i titoli accademici e professionali per dirci cosa ne pensa di questa ipotesi, ma siccome non mi nascondo dietro un dito, prima vi do l'opinione del fesso che vi sta parlando. Questa è, di tutte le misure del pacchetto Renzi, quella che io considero la più errata e che mi auguro in Parlamento qualcuno voglia combattere. Non mi illudo del fatto che venga non approvata, ma che la combatta. Vi dico perché, vi dico perché. Questo 26% per me è una mazza risparmio. Sapete perché? Perché non è un'imposta progressiva, innanzitutto, è una nuova patrimoniale che si somma alla patrimoniale, quella sul conto titoli, che si è alzata allo 0,2% quest'anno. Poi azzanna solo i piccoli risparmiatori, perché salva i cosiddetti lordisti. Chi sono i lordisti? Quelli che si portano le rendite da capitale invece nel loro dichiarazione dei redditi d'impresa, se sono banche, intermediari finanziarie. Salva i soci delle imprese, quelli che hanno le cosiddette partecipazioni rilevanti, cioè il 5% di una società quotata o il 20% di una qualunque altra società. In questo caso possono portare metà delle loro rendite da capitale, dividendi e così via, anche loro nella dichiarazione dei redditi, quindi progressiva, mentre invece questo 26% riguarda i piccoli risparmiatori, che non sono banche, non sono intermediari, non sono soci di imprese, e li tassa in maniera patrimoniale a prescindere dal loro reddito. Sono contrario a questo 26% ammazza risparmio, perché non è vero che è la via europea, perché in Germania per esempio chi ha meno reddito, cioè è compreso nell'aliquota IRP fino al 25%, può scegliere, se ha rendite da capitale, cioè un po' di titoli di cui fa cassettista, non lo speculatore, di portarla anche in quel caso in IRPEF, avendo 8.100 euro di franchigia esentasse, e poi di pagare una aliquota che è molto più bassa di quella italiana. Poi, innanzitutto penso che i 2 miliardi e mezzo di gettito siano sovrastimati, ma credo che vadano presi da tagli di spesa, non da nuove tasse. E infine, io considero intollerabile che lo Stato faccia rimanere al 12,5% la tassazione sui suoi titoli pubblici, oppure su utilizzi di risparmio destinati alle poste pubbliche, e alzi al 26% ammazza risparmio quella di tutti gli altri tipi di utilizzo del risparmio, perché ai miei occhi questa asimmetria è espressione della sete dello Stato, capite? È pura repressione fiscale, come se non ci fosse bastata la Tobin Tax all'italiana, solo in Italia, gli altri grandi paesi europei non l'hanno adottata, che ha già abbattuto del 20% il volume del trading di borsa italiana. Ecco, per tutte queste ragioni io sono contrario, ma sono uno stupido, come è noto. E allora do la parola all'ospite di oggi, è il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, che insegna strategia d'impresa ed economia aziendale presso la scuola di direzione aziendale della Bocconi. Buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi, professor Maffè. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno Oscar. Allora, le lascio un po' di minuti per spiegare dal suo punto di vista questa imposta, che effetti potrebbe avere, se è fondato chi dice che è giusto così, il riequilibrio delle rendite andate troppo al capitale e poco al lavoro, cosa che è vera, ma io discuto che se questa sia la maniera giusta. Le lascio il microfono, lei che pensa? Che ha tante pecche e un piccolo pregio. Le pecche sono che è regressiva, l'hai detto anche tu, è concorrenza sleale sull'allocazione dei risparmi del capitale, perché lo Stato spiazza gli investimenti in impresa fondamentalmente rendendoli meno attrattivi e quindi attirando più risparmio su di sé. Sicuramente distorce il costo del capitale per l'impresa, quindi rendendo le imprese ad alta intensità di capitale, o anche la ricapitalizzazione delle imprese sia da fondamentale per salvare il capitalismo italiano, troppo banco dipendente e poco capitalizzato e fragilissimo rispetto ai nostri nuovi standard di Basilea. Quindi ha tanti aspetti negativi, ne ha uno positivo, se posso dire, che è quello di riequilibrare il rapporto di sostituzione fra capitale e lavoro, che invece in questi anni in Italia è stato fortemente penalizzato a favore del lavoro. Quindi diciamo comparativamente, in termini assoluti è sbagliata, in termini comparativi riequilibra il rapporto di sostituzione fra capitale e lavoro per l'impresa, ovvero diciamo così, diventa meno conveniente investire in macchinari e in capitale fisso perché costa di più il capitale all'impresa a questo punto, costa molto di più, adesso voi vi spiego perché costa molto di più, quindi non costa 6 punti in più, costa 25-30 punti in più a seconda del costo del mix e del costo del capitale, dicevo quindi costa molto di più il capitale e quindi costa sia comparativamente meno il lavoro sia assolutamente meno il lavoro in quanto c'è un previsto uno sconto IRAP, quindi c'è un trasferimento, se volete, del beneficio fiscale dal capitale al lavoro. Questa non è una cattiva notizia in uno Stato che ha bisogno di mettere a lavorare qualche milione di persone e in particolare tante donne, è una buona notizia in termini relativi, purtroppo in assoluto siamo sempre di fronte a una situazione che non favorisce in generale la cultura imprenditoriale, la redditività d'impresa, perché le iniziative sul lavoro sono del tutto insufficienti a renderlo conveniente, è meno sconveniente di prima ma è ancora molto poco conveniente, in compenso adesso non è neanche più conveniente investire in capitale d'impresa, quindi secondo me è un bel pateracchio da questo punto di vista. Mi fermo qua perché la sintesi è proprio questa, no? È distorsiva, regressiva, è concorrenza sleale sul capitale, modifica il costo del capitale delle imprese, ma se vuoi riequilibra un pochino quel grande squilibrio che si è creato in questi anni, 15-20 anni, da quando c'è l'IRAP sostanzialmente, da quando c'è non solo l'IRAP, ma questa forma di grande rigidità sul mondo del lavoro rende più interessante per un imprenditore sostituire lavoro e capitale in modo diverso. Due domande collegate a quello che ha detto per consentire a casa di riflettere meglio, ma la maniera più equilibrata dal punto di vista degli effetti ipotizzabili sulla crescita economica per riequilibrare questo svantaggio accumulato nel tempo di eccessiva tassazione sul lavoro rispetto a quella sul capitale non sarebbe quella di abbassare quella del lavoro per avvicinarla a quella del capitale piuttosto che viceversa in termini di crescita stimata? E poi, seconda cosa, per un paese che in termini di produttività comparata quello è il maggiore problema insieme agli squilibri di finanza pubblica, l'effetto che lei ha appena descritto, cioè di accrescere di molti punti il costo del capitale per l'impresa, non è esattamente l'opposto di ciò che serve come fondamento per il rilancio della produttività d'impresa? Due domande. Questo è veramente la preoccupazione grave e gli analisti non l'hanno ancora sottolineato. Io oggi ho fatto due consigli di amministrazione di due società quotate e ci siamo posti il problema che ci è aumentato il costo del capitale dalla sera alla mattina, perché noi sia sul debito sia sull'equity dobbiamo pagare ai nostri azionisti e ai nostri obbligazionisti di fatto tassi di interesse più alti, perché per ottenere loro lo stesso rendimento di prima noi dobbiamo alzare i nostri tassi a seconda del mix tra capitale di rischio e capitale di terzi del 20-30%. E guardate che è una cifra enorme, perché ovviamente io risparmiatore, e quanto più sono piccolo paradossalmente più sono penalizzato. Tu correttamente hai citato il caso sia dei lordisti da una parte per le rendite finanziarie, sia dei piccoli azionisti che pagano sul dividendo ritenute fiscali diverse, per cui i dividendi dei piccoli azionisti sono più tassati di quelli dei grandi possessori e degli azionisti rilevanti. Quindi oltre a essere regressivo dal punto di vista di chi colpisce, anche questo meccanismo perverso per cui più sei piccolo azionista e più sei penalizzato. Però io adesso lo guardavo dal punto di vista dell'impresa. Tutte le analisi sono state fatte dal punto di vista del risparmiatore, bellissimo, ma prima che ci sia un risparmiatore ci deve essere un investitore industriale, ci deve essere qualcuno che quel capitale lo compra e di solito lo compra per fare impresa, benissimo, io sono un'impresa, mi serve capitale per investire in macchinari, sostituire le tecnologie, cambiare il mio modello di business, esportare all'estero, fare e-commerce, il capitale mi serve, è un fattore produttivo. Signori, lo Stato ha deciso di aumentarmi il prezzo di mercato del mio, è come tassare la benzina, chiaro? Il mio fattore produttivo ineludibile il capitale, di cui lo Stato è monopolista peraltro, perché stabilisce il valore della moneta, oggi mi costa di più, ma mi costa molto di più, perché io devo remunerare gli azionisti che sono tassati con un 30% in più sull'aliquota precedente, dal 20 sono passati al 26, no? Quindi hanno un 30% di aumento marginale dell'aliquota. Questo mi obbliga a rifare tutti i conti sulla redditività dei miei investimenti, e sarà un lavoro importante, non lo sappiamo ancora. In questo senso introduce, oltre a un danno, anche una forte incertezza sulle decisioni di investimento da qui ai prossimi settimane e mesi, che sono di fatto congelate, perché io non so quanto pago il capitale. Anche qui, se devi farle queste cose, posto che io sono in disaccordo su questo strumento, o almeno falle, ma non annunciarle, perché a questo punto io non posso più né decidere di fare né decidere di non fare, perché sbaglio. E quindi c'è anche l'effetto di paralisi prima di vedere la norma, così come sì, già abbiamo una bassa propensione purtroppo agli investimenti, e l'effetto che sostiene il professor Maffè aggiunge, no? Perché è ovvio che se io non riesco a capire bene quanto mi costa questo fattore non proprio secondario che è capitale in un'impresa, sospenderò. Dunque, raffiche di messaggi che arrivano, alcuni difendono con insulti al sottoscritto, ci deve essere qualcuno che lavora alle poste, che mi ha coperto di insulti tipo Emilio da Cremona e così via, dicendo che bisogna che io la piante di starnazzare, ma le cifre sono queste, l'imposta è questa, ragazzi, potete pensarla in maniera diversa, ma che bisogna stare zitti, a meno che, ripeto, abbiate interessi diretti in questo tipo di aumento della tassazione regressiva che colpisce i piccoli risparmiatori, salva le banche, salva i grandi soci, eccetera eccetera. Io non lo capisco dal vostro punto di vista, però ci sono molti che invece fanno domande concrete e tenteremo di dare qualche risposta. Tenete conto che il testo però, guardate, non c'è, quindi molti che chiedono particolari, per esempio c'è l'esenzione dai conti di deposito, dal tipo di annuncio che è arrivato non ci dovrebbe essere, però bisogna vedere poi il provvedimento, bisogna vedere l'esame parlamentare. Intanto però abbiamo 60 secondi di informazione sul traffico. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta, 16:47, primi 36 secondi. Stiamo parlando della proposta di aumento della tassazione sulle cosiddette rendite finanziarie, cioè redditi che si producono dai piedi di capitale, risparmio bancario, obbligazioni, azioni private, non i titoli di Stato, quelli restano al 12,5%, non i prodotti del risparmio postale, che è pubblico, quelli restano al 12,5%. Si somma al patrimoniale conto titoli introdotto dal governo Monti e che è aumentata come aliquota quest'anno, non consente l'applicazione di imposte progressive come sarebbe giusto verso chi fa cassettista. Molti dicono per esempio, ma quanti saranno gli italiani che hanno titoli in tasca? Milioni, certo sono molto scesi, ma sono comunque milioni che hanno titoli che tengono lì come cassettista, convinti che negli anni ci sia un buon indice di rivalutazione. E non capisco perché allora bisogna fare una tassazione patrimoniale che non tenga conto del reddito che magari è basso che hanno. Sono tante le contraddizioni. Il professor Carlo Alberto Granavalle Maffè ci ha sottolineato che c'è poi un impatto di cui non si è parlato fino a questo momento, che è una modifica sostanziale del costo del capitale per le imprese, sia per la parte debito sia per la parte equity, e quindi questo significa, fino a che non si capisce davvero la norma e come funziona, oltretutto bloccare le decisioni di investimento delle imprese. È vero, c'è un riequilibrio a favore della tassazione sul lavoro troppo più pesante rispetto a quella sui capitali negli ultimi anni alle nostre spalle, però il riequilibrio è verso l'alto. Sentiamo che cosa ne pensa e cosa ci chiede Fabrizio, che chiama da Torino. Prego Fabrizio. Buonasera a tutti, e in particolare a lei Oscar, per cui ho parecchia simpatia, fa sempre disamina. Grazie, ma vado al punto. Perché non... Vado al punto ed era un po' più generale. Secondo me questo tipo di tassazione è ovviamente semplicistica, e apprezzo molto e condivido molto quello che ha detto prima il professore, ma vorrei restare leggermente più sul generico e dire che per quale motivo negli ultimi anni non c'è mai stata una visione sotto tutti gli aspetti, e questa è l'ultima goccia, di un certo tipo. Cioè, io ascoltando lei in particolare noto che il governo non ha mai fatto una mossa giusta, e questa, o comunque di una certa profondità tale da avere una visione più lunga di quella che sono le elezioni del 25 maggio. non so se mi spiego, per quale motivo i governi italiani non riescono a vedere più in là della punta del naso. Questa è l'ultima goccia, diciamo, in un mare. Io vorrei buttarla un po' più sul generico, personalmente, sul generale. Ho capito. Intanto do una risposta ad ascoltatore. Io da umile utente, sì, sento e posso giudicare dal mio punto di vista le considerazioni che fa lei e parecchi altri economisti. Per quale motivo i governi italiani non riescono mai a fare una cosa importante giusta? Però Fabrizio, aspetta un secondo, io non sto dando un giudizio, non mi permetterei, ho la mia opinione, ma non sto liquidando l'intera serie dei provvedimenti illustrati, annunciati da Renzi per la scossa all'economia. Per esempio la parte che fa tornare il rapporto di lavoro a tempo determinato da 12 mesi a 3 anni, abolendo il causalone e facendo tornare l'apprendistato prima delle complicazioni e degli oneri introdotti dalla riforma Fornero, quella è una parte che secondo me vale tanto oro quanto pesa in termini di aumento della propensione dell'offerta di lavoro, soprattutto per le piccole imprese. E anzi, io anche la riforma del cosiddetto codice del lavoro, con l'introduzione del contratto di inserimento a tutele crescenti, che anche questo è stato annunciato, e la diminuzione delle tipologie dei contratti e l'estensione universale rispetto all'ASPI, mini ASPI, di un ammortizzatore sociale per tutti, cose per le quali, sentendo Renzi, dovremmo aspettare prima una delega in Parlamento, poi 6 mesi o 12 mesi per il nuovo codice del lavoro. Poi, ecco, io queste cose non solo le apprezzo, ma le avrei volute prima. Quindi io non mi permetto di dire tutto sbagliato, tutto da rifare. Dico che questo punto dell'aumento dell'aliquota, che serve oltretutto a diminuire del 10% la parte IRAP pagata dalle imprese private, sono 24 miliardi, quindi 2 miliardi e 4, che io non credo questo imposto porterà a casa, quella secondo me è proprio sbagliata, per tutta una serie di ragioni che ho tentato di spiegare, anche se è vero che c'è un problema di riequilibrio della tassazione tra lavoro e capitale. Sentiamo ancora come la pensa Giuseppe, che ci chiama da Arezzo. Prego Giuseppe. Sì, buonasera dottor Giannino. No, Giannino e basta, si figuri. Prego. Va bene. Senta, ma io, siccome è un'idea che mi rifrulla sempre per la mente, mi sembra di essere preso in giro, ma non gli sembra che l'articolo 47 della Costituzione sia continuamente oltraggiato da tutti questi aumenti, da tutte queste vessazioni che vengono fatti sui risparmiatori? Lei pensa che ci sia una Corte Costituzionale capace di elevare questo argomento rispetto alla tutela costituzionale del risparmio rispetto a un aumento di tassazione? Come vorrei pensarla come lei? No, io la vorrei pensare come lei, però... Io cito, so che l'articolo 47 cita la Repubblica, incoraggia e tutela come il risparmio no? In tutte le sue forme. Lo so, ma ha ragione. Si figuri quanti anni ci abbiamo messo per avere una qualche misura di legge, per esempio sull'anatocismo, quanti anni ci abbiamo impiegato, per dirne una. Sì, però... ma i magistrati che tendono sempre a mantenere i loro privilegi dicendo che le cose ormai sono acquisite e non si può tornare indietro, mi sembra che non ci mettano mai bocca su queste cose. Lo so, però guardi, un magistrato che impugna per l'articolo 47 un provvedimento che innalza le tasse sulle rendite capitale non me lo so immaginare. Alessandro da Brescia, a breve però, Alessandro, prego, dici. Sì, velocissimo, vorrei chiedere una spiegazione. Sì. Se un imprenditore va in banca a chiedere un prestito per capitale, insomma, e la banca come lordista non ha nessuno svantaggio da questa manovra di Renzi, la banca non dovrebbe aumentare il costo del denaro per l'imprenditore? Perfetta la domanda, sentiamo cosa ci risponde il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ma qui il tema è esattamente di capire con che struttura io costruisco il mio capitale. C'era un ultimo argomento che volevo dire. Basilea 3, diciamo, in generale le nuove regole europee spingono le imprese italiane a una maggiore capitalizzazione, cioè ad avere più equity, sostanzialmente più capitale di rischio. Le imprese italiane sono sottocapitalizzate per due motivi: uno dimensionale, sono troppo piccole; uno relativo, sono troppo esposte al debito, troppo bancarizzate e poco capitalizzate. Quindi i imprenditori sono già sotto una pressione per ricapitalizzare le imprese a fronte di un mercato che non cresce, anzi che diminuisce. Si trovano di fronte al mix di alternative molto contrastate a questo punto, perché in linea teorica dovrebbero di nuovo tornare dalle banche, le quali invece sono in credit crunch e non sono disposte, per nuovi criteri patrimoniali, a dare soldi, perché risultano essere quelle che hanno meno da perdere da questo modello. Esatto. Mentre mentre fare quello che avrebbero dovuto fare, cioè immettere i propri soldi, sì, nell'impresa, ottenendone dividendi che a questo punto sono tassati molto di più, certo, viene penalizzato. Quindi devo dire, è ancora presto per decidere cosa succederà, perché io devo vedere se poi la banca militare. Esatto, esatto. Allora, noi purtroppo abbiamo finito il tempo, continuate con Radio 24, appuntamento con me a lunedì.